Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Bentrovati a Ferry Boat, io sono Enzo Argante, il navigatore. Cominciamo subito parlandovi di Re Media, che è un consorzio, uno dei sistemi collettivi italiani no profit, che ha la caratteristica di favorire, di incentivare, ma anche di attivare fisicamente la raccolta dei rifiuti, di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Proprio in tema con la natura, diciamo, vorrei dire digitale, Re Media ha lancia ed è il primo che lo fa in Italia, una piattaforma rivolta ai giornalisti, ai blogger, una piattaforma 2.0. Da oggi blogger e giornalisti, era una tendenza chiaramente destinata ad affermarsi sempre di più, potranno avere accesso immediato a informazioni precise e news sul Re Media direttamente attraverso il sito e non tramite costose e, diciamoci pure la verità, a volte anche noiose conferenze stampa. Rimaniamo nel campo digitale per parlare di Wi-Fi, che è la grande battaglia per alcuni, per esempio per Green Geek, che è una iniziativa che ha contribuito a far nascere Asso Wi-Fi. Che cos'è Asso Wi-Fi? Lo chiediamo al presidente Mauro Lattuada. Ciao a tutti, io sì, sono il presidente dei Green Geek in realtà. Asso Wi-Fi è appunto un'associazione che nasce su stimolo del lavoro che Green Geek stavano facendo di sensibilizzazione al Wi-Fi, stimolo che ha portato una reazione inaspettata. Ci sono stati centinaia di comuni che hanno risposto, si sono messi in contatto tutti i provider di servizi che fanno questo di mestiere, e quindi ci siamo resi conto che conveniva radunarli sotto uno stesso gruppo di lavoro teso a fare due cose: da un lato a portare Wi-Fi dovunque, dall'altro a capire che cosa ci deve passare sul Wi-Fi, quindi quello che la gente si aspetta e quali servizi tra poco inizieremo a fruire grazie a questa tecnologia. Leggo qui sui vostri, diciamo, sulla vostra mission, che uno degli obiettivi è la pubblica amministrazione completamente digitalizzata entro il 2020. Certo, non è un obiettivo che in questo momento non sembra essere gradito dalla pubblica amministrazione stessa? In realtà è una pretesa che il mondo digitale, ma non solo, hanno per rendere la pubblica amministrazione più semplice, più trasparente e più utile al cittadino. Siccome è una cosa nostra, è giusto che si operi per cercare di digitalizzarla, aiutando innanzitutto quelle tante pubbliche amministrazioni che già lo stanno facendo, perché i piccoli paesi riescono sempre a scioccarci. Troviamo sindaci completamente digitali che twittano e che pretendono che ogni loro dipendente sia online, e educando le grandi città, quelle che fanno più fatica delle piccole ad adeguarsi, a trovare delle soluzioni sensate ed economicamente sostenibili per farlo, e quindi obbligandole in qualche modo a guardare a questo tema con molta attenzione, cercando di fare qualcosa. Un'ultima domanda, una risposta velocissima: il vostro slogan è 150 anni, l'anniversario della nascita dell'Italia, in 150 piazze Wi-Fi. Riuscirete a raggiungere entro il 2011 questo obiettivo? Entro il 2011 sì, le prime 150 piazze sono state già deliberate, le stiamo installando. Noi a ogni scadenza di idea, quindi quando da idea si passa a progetto, i 150 sono progetto, le antenne sono in corso, passiamo allo step successivo e in realtà stiamo mirando a portare in 1500 comuni questa filosofia rispetto ai 150. Bene, grazie, buon lavoro. Noi andiamo avanti. Lunedì al Teatro Sistina di Roma, serata di beneficenza straordinaria per sostenere i progetti di Operation Smile Italia, che è quell'organizzazione no profit che si occupa di curare, di operare i bambini affetti da labbro leporino. Ci saranno Luca Barbarossa e Neri Marco Rein, attenti a quei due. L'obiettivo di Operation Smile è di operare quest'anno 20.000 bambini nel mondo. Se volete partecipare a questo spettacolo potete chiamare lo 06 85 30 53 18. E finiamo ricordandovi che martedì è la giornata mondiale dell'acqua, proclamata dalla conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite. Ricordiamoci di questa giornata. Vi ringrazio di aver ascoltato. ferribotti@radio24.it per le vostre informazioni sulle iniziative di responsabilità sociale e no profit. Grazie alla redazione di Anita Panizza e Valeria Bernardi in regia. A risentirci.